il voto del PDL è un po' al di sotto delle aspettative. Penso che innanzitutto si paghi un'astensione molto pronunziata. Per avere percentuali più alte era necessario un voto più ampio. È chiaro che l'astensione penalizza i grandi partiti e il PDL, diciamo, è ormai l'unico partito che è sopra la soglia del 30%. In secondo luogo è necessario vedere anche la distribuzione geografica del voto. Una mia impressione, queste cose vanno valutate con un po' più di attenzione, è che per esempio il voto siciliano abbia influito e probabilmente qui, insomma, l'azione del presidente della regione Sicilia, che ha creato una crisi in campagna elettorale, non è stata ben vista dall'elettorato, che non ha partecipato al voto. Le percentuali di astensione sono molto alte. Infine, per non sfuggire alla sua domanda, io non credo che paghi il caso a cui lei ha fatto riferimento. Credo che la campagna elettorale sia stata molto influenzata invece dall'introduzione di elementi non politici che hanno portato la nostra volontà di far conoscere i dati del governo e la nostra politica europea in secondo piano. Siamo stati a inseguire, diciamo, gli organi di stampa piuttosto che continuare a impostare la campagna così come era iniziata. Questa cosa ci ha penalizzato.